Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Varcato l'arco di trionfo della porta di Mosca, monumento colossale in pietra grigia, decorato con geroglifici d'oro, enormi aquile imperiali riportante i nomi degli zar, ci inoltrammo sulla larga strada a diritta, ricoperta da una bianca coltre di neve. Pullulava di guardie rosse a piedi. Alcune si dirigevano cantando al fronte rivoluzionario, altre, grigie in volto e cosparse di fango, ne ritornavano. Per lo più si trattava di ragazzi. Vi erano anche delle donne munite di vanghe, alcune recavano fucili e cartucce, altre portavano al braccio la fascia della Croce Rossa. Erano le donne dei bassi fondi, piegate e sfibrate dal lavoro. Gruppi di soldati che neppure si curavano di andare al passo scherzavano amichevolmente con le guardie rosse. Vi erano anche dei marinai dal volto truce e dei ragazzi incaricati di rifornire di cibo i parenti. Tutti costoro andavano e venivano calpestando lo strato spesso di fango biancastro che rivestiva la strada. Oltrepassammo dei cannoni che si dirigevano sferragliando verso sud, camion stipati di uomini armati, ambulanze cariche di feriti che tornavano dal campo di battaglia. Sopra un carro da contadino che procedeva lento e traballante, un giovanotto pallido e sofferente, ferito al ventre, sedeva piegato in due. Su entrambi i lati della carreggiata, donne e persone anziane scavavano trincee e disponevano il filo spinato. Mentre le nuvole si spostavano a nord, un pallido sole apparve nel cielo. Le luci di Pietrogrado sfavillavano all'estremità opposta di quella pianura melmosa. Sulla destra risplendevano le bianche, dorate e multicolori cupole e guglie. A sinistra fumo nero fuoriusciva dalle alte ciminiere, mentre sullo sfondo un cielo basso gravava sulla Finlandia. Chiese e monasteri si susseguivano sulla nostra strada. Talvolta un monaco ne emergeva per osservare silente il pulsante avanzare dell'esercito proletario. A un bivio nei pressi di Pulkovo, tre correnti umane si riversarono le une contro le altre, formando un tale affollamento da costringerci a una sosta. Molti, gli amici che si ritrovavano, si felicitavano, si raccontavano reciprocamente la battaglia. In quel crocicchio diverse case recavano le tracce dei proiettili e la terra sembrava calpestata pesantemente per almeno una lega tutt'intorno. Senz'altro la battaglia aveva infierito in questo luogo. Poco più avanti alcuni cavalli cosacchi, privi di cavalieri, correvano avanti e indietro nella vana ricerca, non vi era un filo d'erba in tutta la pianura, di un qualche nutrimento. Una guardia rossa stava tentando di montarne uno, ma nel sollazzo generale continuava a venire disarcionato. La strada di sinistra, dalla quale i cosacchi sopravvissuti erano fuggiti, risaliva una collinetta per condurre a un piccolo villaggio da cui si poteva contemplare il panorama su quell'interminabile pianura, grigia come un mare senza vento e sovrastata dal continuo accavallarsi delle nuvole, e sulla città imperiale che rigurgitava orde di uomini lungo tutte le strade. In lontananza, sulla sinistra, si intravedeva la piccola collina di Krasnoje Selo, la piazza d'armi della guardia e la villa imperiale. Null'altro interrompeva la monotonia della pianura, ad eccezione di alcuni monasteri e conventi circondati da alte mura, qualche fabbrica isolata e alcuni imponenti edifici adibiti ad asili e orfanotrofi e circondati da terre coltivate. «È qui», raccontò l'autista mentre risalivamo una collina spoglia, «è qui che è morta Vera Slutskaya, la deputata bolscevica della Duma. Era mattina presto e lei viaggiava in auto con Zaltkind e con qualche altro. Era stata dichiarata una tregua e loro si apprestavano a recarsi al fronte, parlando e scherzando serenamente, quando all'improvviso, dal treno blindato sul quale si trovava lo stesso Kerensky, qualcuno sparò al veicolo. Il proiettile colpì Vera Slutskaya, uccidendola sul colpo». A Sarskoe gli eroi dell'esercito proletario esultavano per le strade. Nel palazzo dove il Soviet si era installato ferveva una grande attività. Guardie rosse e marinai erano disseminati in tutto il cortile. Numerose sentinelle custodivano le porte e vi era un continuo flusso di corrieri e commissari. Nella sala del Soviet, raccolti attorno a un samovar, Una cinquantina di operai, soldati, marinai e ufficiali discutevano rumorosamente. Al tavolo centrale l'enorme Di Benko, curvo su una carta geografica, vi segnava con matite rosse e blu le posizioni delle truppe. Nella mano libera stringeva immancabilmente l'enorme revolver di acciaio blu. Improvvisamente cominciò a picchiettare con un dito su una macchina per scrivere. Ogni tanto si fermava a riflettere, giocherellando amorevolmente con il grilletto dell'arma. Su un giaciglio lungo il muro era coricato un giovane operaio. Solo due guardie rosse stavano curve su di lui. Sul suo petto un foro di proiettile, da cui a ogni respiro il sangue fuoriusciva copioso. I suoi occhi erano chiusi e il volto irsuto appariva verdastro. Respirava debolmente, ripetendo a ciascun alito: «La pace viene. La pace». Al nostro ingresso, Di Benko alzò gli occhi. «Ah!» disse rivolgendosi a Baklanov. «Compagno, andate all'ufficio del comandante e assumete il comando. Aspettate, vi do io un ordine di servizio». Tornato alla macchina, si mise lentamente a scrivere. «Mi recai col nuovo comandante di Sarskoye Selo al palazzo di Ekaterina». Baklanov era eccitatissimo per la sua promozione. Nell'elegante sala bianca, che alcune guardie rosse erano impegnate a perquisire, il mio vecchio amico colonnello, in piedi accanto alla finestra, si mordicchiava i baffi. Mi accolse come un fratello creduto ormai perduto. A un tavolo, accanto alla porta, sedeva il francese della Bessarabia, cui i bolscevichi avevano imposto di rimanere e continuare il suo lavoro. «Cos'altro avrei potuto fare?» mi sussurrò. «Quelli come me, seppure disgustati dalla dittatura delle masse, in una guerra come questa, non possono battersi né per gli uni né per gli altri. Mi rincresce solo di essere così lontano da mia madre e dalla Bessarabia». Baklanov ricevette formalmente il comando dal colonnello. «Ecco», proferì nervosamente, «le chiavi dell'ufficio». Una guardia rossa lo interruppe chiedendo rozzamente: «Dov'è il denaro?» Il colonnello parve sorpreso. «Il denaro? Che denaro?» «Ah, intendete la cassaforte. Eccola. Come l'ho ritrovata quando ne ho preso possesso 3 giorni fa. Le chiavi?» Il colonnello alzò le spalle. «Non ho le chiavi». La guardia rossa sogghignò, maliziosa. «È molto comodo», disse. «Apriamola», disse Baklanov. «Andate a recuperare una scure. Il compagno americano qui presente farà saltare il coperchio e ne registrerà il contenuto». La cassaforte risultò essere vuota. «Arrestatelo!» gridò la guardia rossa con rancore. «È senz'altro un partigiano di Kerensky. Ha rubato il denaro e lo ha consegnato a lui». Ma Baklanov non ne condivideva l'opinione. «No», affermò. «È stato il Kornilovista che era qui prima di lui. Non è lui il colpevole». «Al diavolo!» replicò la guardia rossa. «Vi dico che è un uomo di Kerensky. Se non volete arrestarlo, lo faremo noi. Sarà scortato alla fortezza di Pietro e Paolo. Quello è il suo posto». Ottenuto il consenso delle altre guardie, fece condurre via il colonnello, che gettava verso di noi sguardi pietosi. Davanti al palazzo dei Soviet, un camion si preparava a partire per il fronte. Una mezza dozzina di guardie rosse, alcuni marinai e un paio di soldati, comandati da un operaio dalla corporatura di un gigante, vi si arrampicarono gridandomi di salire con loro. Le guardie rosse uscivano dal quartier generale tenendo sotto braccio piccole bombe cariche di Grubit, esplosivo che a sentire loro era 10 volte più violento e 5 più sensibile della dinamite. Gettati gli ordigni nell'autocarro, vi attaccarono sul retro, tramite corde e fil di ferro, un cannone da 3 pollici. Infine partimmo a tutta velocità. Il pesante autocarro sbandava a destra e sinistra, il cannone ballonzolava sulle ruote e le bombe di Grubit rotolavano avanti e indietro urtando rumorosamente contro i fianchi del mezzo. L'operaio al comando, che si chiamava Vladimiro Nikolaevich, mi assillava con continue domande sull'America. Perché l'America era entrata in guerra? Gli operai americani erano pronti a rovesciare il capitalismo? A che punto era il processo Mooney? Bergman sarebbe stato consegnato a San Francisco? Seguitava a pormi domande imbarazzanti, urlando per contrastare il fracasso dell'autocarro, mentre, aggrappati gli uni agli altri, venivamo sballottati in mezzo a rotolare delle bombe. Di tanto in tanto una pattuglia tentava di fermarci. «Alto là!» gridavano dei soldati in mezzo alla strada. «Al diavolo!» rispondevano i miei compagni di viaggio. «Non potete fermarci, siamo guardie rosse!» E fieramente proseguivamo nella corsa mentre Vladimiro Nikolaevich seguitava a urlarmi nell'orecchio qualche riflessione a proposito dell'internazionalizzazione del canale di Panama o ad altre questioni. Percorse all'incirca 5 miglia, incrociando una squadra di marinai, ci fermammo. «Compagni, dove si trova il fronte?» Colui in testa rispose: «Questa mattina era soli 500 metri, adesso pare scomparso nel nulla. Stiamo camminando da ore senza riuscire a trovarlo.» Li caricammo, ripartendo subito dopo. Percorso un altro miglio, Vladimiro Nikolaevich tese l'orecchio e gridò al conducente di fermare. «Colpi di fucile!» esclamò. «Sentite?» Una profonda quiete seguì le sue parole. Poi, un poco avanti e sulla sinistra, 3 detonazioni si susseguirono. Una fitta foresta costeggiava la strada da entrambi i lati. Agitati avanzammo lentamente, le voci ridotte a sussurri. Arrivati più o meno all'altezza del luogo in cui avevamo udito gli spari, scendemmo dal mezzo addentrandoci con la massima cautela nella foresta. 2 compagni staccarono il cannone, posizionandolo in modo da proteggerci le spalle. Un inquietante silenzio gravava sul bosco. Le foglie erano cadute e i tronchi risplendevano giallastri sotto il debole e obliquo sole autunnale. Nulla pareva muoversi, a eccezione del ghiaccio che scricchiolava sotto i nostri passi. Si trattava forse di un'imboscata. Quando gli alberi presero a diradare, ci fermammo. A breve distanza, in una piccola radura, notammo 3 soldati, apparentemente ignari di tutto, seduti attorno a un fosso. Vladimiro Nikolaevich avanzò verso di loro. «Buongiorno, compagni», gridò con la sicurezza conferita dalla protezione di un cannone, 20 fucili e una discreta provvista di grubit. I soldati scattarono in piedi. «Perché si sono sparate delle fucilate qui un momento fa?» Rassicurato, uno dei soldati rispose: «Oh, siamo stati noi, compagno. Abbiamo sparato a un paio di conigli.» Ripartimmo in direzione di Romanov. Al primo crocicchio, 2 soldati, fucili alla mano, ci ingiunsero di fermarci. «I vostri lascia passare, compagni.» Le guardie rosse cominciarono a urlare. «Siamo guardie rosse, non abbiamo bisogno di lascia passare. Avanti, non seccateci!» Ma un marinaio osservò: «Sbagliamo, compagni. Dobbiamo rispettare la disciplina rivoluzionaria. Supponete che dei controrivoluzionari arrivino in camion e dicano: noi non abbiamo bisogno di lascia passare. In fondo, questi compagni non ci conoscono.» Dopo una breve discussione, a uno tirarono fuori le loro sudice carte. Erano tutte uguali, eccetto la mia, rilasciata dallo Stato Maggiore Rivoluzionario di Smolny. Le sentinelle mi ordinarono di seguirle. Di fronte alle proteste delle guardie rosse, il marinaio che aveva parlato prima dichiarò: «Per quanto noi sappiamo perfettamente che lui è un vero compagno, vi sono ordini del comitato ai quali si deve obbedire. È la disciplina rivoluzionaria.» Deciso a non provocare problemi, discesi guardando l'autocarro che si allontanava sulla strada. Tutti mi facevano segni di addio. I soldati, dopo aver discusso a voce bassa, mi condussero verso un muro contro il quale mi collocarono. Di colpo compresi che intendevano fucilarmi. Mi guardai disperatamente intorno. L'unico segno di vita proveniva dal fumo che fuoriusciva dal camino di un piccolo edificio in legno a poche centinaia di metri di distanza. Mi avvicinai a loro, tentando di convincerli. «Ma, compagni, guardate, c'è il timbro del Comitato Militare Rivoluzionario!» Rivolsero uno sguardo vacuo al mio lasciapassare prima di ribadire: «È diverso dagli altri, e noi non sappiamo leggere!» «Andiamo fino a quella casa!» proposi, afferrando uno di loro per un braccio. «Vi sarà pure qualcuno capace di leggere!» Esitarono. Uno di loro fece un segno di diniego, ma l'altro mi squadrò. «Perché no?» borbottò. «Sarebbe un enorme delitto uccidere un innocente.» Bussammo alla porta della casa, da cui si affacciò una piccola e grassa donna che, spaventata, balbettò: «Non so nulla, non li ho visti.» Una delle sentinelle le tese il mio lasciapassare. La donna gettò un grido: «Vogliamo solo che voi ci leggiate questo, compagna.» Esitante, essa prese la carta e lesse molto svelta: «Il latore di questo lasciapassare, John Reed, è un rappresentante della socialdemocrazia americana, un internazionalista.» Di nuovo in strada, i soldati ripresero a discutere. Tornai al palazzo del Soviet di Salskoje nell'automobile dello Stato Maggiore del reggimento. Là trovai la medesima folla di operai, soldati e marinai che entravano e uscivano, lo stesso assembramento di autocarri, auto blindate e cannoni davanti all'ingresso e dovunque la gioia traboccante della tanto attesa vittoria. Una decina di guardie rosse che conducevano un prete si faceva strada tra la moltitudine lì adunata. Si trattava di padre Ivan, accusato di aver benedetto i cosacchi al loro arrivo in città. In seguito venni a sapere che era stato fucilato. Dybenko, il revolver sempre stretto in mano, stava uscendo dando rapidi ordini a destra e a manca. Un'automobile lo aspettava accanto al marciapiede, il motore acceso. Solo, nel sedile posteriore, partì alla volta di Gaccina, dove intendeva battere definitivamente Kerensky. Al cadere della notte arrivò alle prime case della città e proseguì a piedi. Nessuno ha mai saputo cosa egli avesse detto ai cosacchi, ma il generale Krasnov e il suo stato maggiore, insieme con parecchie migliaia di cosacchi, si arresero e consigliarono a Kerensky di fare altrettanto. Per quanto concerne Kerensky, riproduco di seguito la deposizione fatta dal generale Krasnov il mattino del 14 novembre. 14 novembre 1917. Oggi, verso le 3 del mattino, fui chiamato dal comandante supremo Kerensky. Era molto agitato e nervoso. «Generale», mi disse, «voi mi avete tradito. I vostri cosacchi parlano di arrestarmi e consegnarmi ai marinai.» «Sì», risposi, «in effetti si parla di questo e so che voi non godete delle simpatie di alcuno. Ma gli ufficiali la pensano allo stesso modo?» «Sì, anche tra loro il malcontento è diffuso.» «Cosa dovrei fare? Non mi resta che suicidarmi.» «Se siete un galantuomo, dovete recarvi immediatamente a Pietrogrado, innalzare la bandiera bianca e presentarvi al Comitato Militare Rivoluzionario, dove inizierete una contrattazione come capo del governo provvisorio.» «D'accordo. Farò come mi consigliate, generale.» «Vi fornirò una scorta e chiederò che un marinaio vi accompagni.» «No, nessun marinaio. Sapete se Dybenko sia realmente qui?» «Non so chi sia. È il mio più acerrimo nemico.» «Questo non ha importanza. Se giocate a un alto livello dovete sapere correre dei rischi.» «Senza dubbio. Partirò questa notte.» «Perché?» «Penseranno a una fuga. Partirete con calma e farete in modo che tutti si persuadano che voi non fuggite.» «Bene, molto bene. Ma mi occorre una scorta sicura.» «È inteso.» Uscii. Chiamai il cosacco Russakov del 10° reggimento del Don e gli ordinai di designare 8 cosacchi per scortare il comandante supremo. Dopo mezz'ora, i cosacchi mi dissero che Kerensky non si trovava e che probabilmente era fuggito. Supponendo che non fosse riuscito ad allontanarsi da Macina, diedi l'allarme ordinando di cercarlo. Invano. Così, solo e celato in un uniforme da marinaio, scomparve Kerensky, che con la sua precipitosa fuga fece crollare definitivamente quel poco di popolarità che ancora conservava fra le masse russe. Ritornai a Pietrogrado su un autocarro guidato da un operaio e carico di guardie rosse. Scarseggiando il cherosene, procedevamo a luci spente. La strada era affollata dai soldati dell'esercito proletario che tornavano a casa e dalle riserve che accorrevano a prendere il posto dei compagni. Camion enormi, colonne di artiglieria, carri, per lo più senza lanterne come noi, si susseguivano nella notte. Nonostante ciò, filavamo veloci, spostandoci rapidi a destra e a sinistra per sfuggire collisioni apparentemente inevitabili, urtando altre ruote e attirandoci addosso le ingiurie dei pedoni. All'orizzonte, le luci della capitale, incomparabilmente più bella di notte che di giorno, sfavillavano come pietre preziose nella desolata pianura. L'anziano operaio, con una mano, teneva il volante e con l'altra indicava con un gesto esultante la capitale che brillava lontano. «Tu sei mia!» gridava, il viso ardente. «Tu sei mia! Adesso, cara Pietrogrado!»